Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Si allarga la guerriglia nel Vesuviano, distrutti i negozi a Bosco Reale, bruciata una bandiera italiana. Il ministro Romani scova altri 110 milioni di incentivi anticrisi, Fiat vola al rialzo, tutti gli obiettivi. Sabrina resta in carcere, la decisione del GIP per l'omicidio di Sara Scazzi. Il giudice Marra lascia la magistratura, sul caso P3 si difende, mai venuto meno ai miei doveri. Stavamo in ginocchio con le mani alzate! Voi qui siete lo Stato! Voi qui siete lo Stato! Questo sapete fare! Vergognatevi! Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Miglioratti. Sono quelle che avete sentito, le dure proteste dei manifestanti a Terzigno, nel Vesuviano. Nella notte è stata guerriglia per bloccare la discarica che è stato deciso verrà aperta. Siamo rammaricati, ma continueremo ad usare anche la forza, ha ribadito il capo della polizia Manganelli. E questa mattina i manifestanti hanno fatto irruzione anche nel paese di Bosco Reale. Sono giuste le proteste antirifiuti in Campania? Secondo voi, vi abbiamo chiesto questa mattina nel nostro sondaggio. Il 45% di voi ha risposto sì, il 55% ha risposto no. Allora noi a Terzigno torniamo subito da Paolo Picone. Cosa sta succedendo, Paolo? Paolo Picone, qualche problema nel collegamento con Terzigno, però noi andiamo avanti ancora con questa pagina mentre cerchiamo di ripristinare la linea. La protesta infatti rischia di dilagare non solo a Terzigno, non vogliamo i rifiuti di Napoli, dicono i presidenti. Ecco, però abbiamo ritrovato Paolo Picone, la situazione è concitata in questi minuti, cosa sta succedendo? Sì Anna, purtroppo la tensione cresce di ora in ora ed è notizia di poco fa che a Bosco Reale, il comune che confina con Terzigno, dove ci troviamo ancora adesso, alcuni manifestanti hanno bruciato una bandiera italiana in Piazza Pace, mentre al pennone del comune il tricolore è stato abbassato, sempre dagli ignoti a mezz'asta, ed è stato esposto un drappo viola tra gli applausi della folla presente. Sempre a Bosco Reale, gruppi di dimostranti questa mattina hanno lanciato sassi contro le vetrine dei negozi e centinaia di genitori hanno prelevato con anticipo i loro figli, soprattutto quelli che frequentano le elementari e le medie, dalle loro scuole per paura. Alla rotonda panoramica invece, che conduce la discarica Sari, si è svolta in mattinata una manifestazione con alcune centinaia di persone. Si tratta di studenti di un istituto tecnico commerciale e delle mamme vulcaniche. Gli studenti, arrivati davanti al cordone delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, hanno intonato l'inno di Mameli. Qui ci sono nuovamente barricate ovunque, l'esasperazione è alle stelle, come possiamo ascoltare dalle testimonianze raccolte, poi linea allo studio. Hanno il diritto di toglierci la vita, ci hanno tolto il lavoro, ci tolgono la vita e questo non è giusto, abbiamo diritto noi come tutti di vivere e di andare avanti. Dare una notizia del genere significa esasperare ancora più gli animi, creare le premesse per incidenti ancora più gravi di quelli che sono verificati nei giorni scorsi. Mi appello all'unica persona che può fare qualcosa, al nostro Presidente della Repubblica, l'unico garante della legalità. Anche se i toni sono da guerra civile, voglio ricordare al nostro Presidente che Terzigno fortunatamente non è Africa, è ancora Italia. Da aggiungere che il sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio, si è presentato questa mattina a Palazzo Grazioli. Vuole incontrare, dice, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Sono venuto qui, nessuno mi ha chiamato, voglio capire cosa è successo, così ha dichiarato poco fa. E poco fa Alessandra Scheppi si è sentito nuovamente anche il governatore della Campania, Caldoro. La classe dirigente si misura se decide e noi prendiamo una decisione, dopo 15 anni si deve decidere, perché se no noi leghiamo il nostro territorio ad avvenimenti, diciamo, di illegalità e di non controllo, quello che è avvenuto negli ultimi 15 anni. Negli ultimi 15 anni non si è voluto decidere e la Campania è stato lo sversatoio, come è noto, basta vedere le inchieste della magistratura, è stato lo sversatoio italiano dei rifiuti tossici e nocivi, illegali. Quindi dobbiamo decidere e controllare il territorio. Per far questo dobbiamo fare come succede in tutta Italia, no? Fare gli impianti e fare le discariche. Avviene in Italia e avviene in Europa. E la protesta, dicevamo, rischia di dilagare nella regione. Non vogliamo i rifiuti di Napoli, dicono i presidenti delle province vicine. Il presidente della provincia di Avellino, Cosimo Sibilli, è stato ospite questa mattina a Radio 24. La provincia di Avellino produce circa il 7% della produzione campana di rifiuti. Nel frattempo, nella nostra discarica, sta sversando la provincia di Salerno, che ricordo è al momento senza una discarica. Quindi noi già doniamo alla provincia di Salerno, diamo una la parte. Possibilità di scaricare dei rifiuti in provincia di Avellino. Quindi la risposta è no, presidente, non li prendete quelli di Napoli. Non ce li prendiamo, se non che fino al 26 ottobre c'è anche la pronuncia del TAR ieri che esclude qualsiasi proroga dopo il 26 ottobre. Torneremo naturalmente a Terzigno se ci saranno altri scontri anche nel corso del giornale. Intanto però nella notte a Napoli ci sono stati anche altri disordini. Tre tifosi del Liverpool sono infatti stati feriti nel corso di uno scontro con tifosi partenopei. Due sono stati accoltellati, un terzo colpito alla testa e tre sono in ospedale, non in pericolo di vita. Alle 19 questa sera si giocherà la partita di Europa League tra Napoli e Liverpool. Tre i napoletani arrestati. Tensione ancora anche in Sardegna, ancora nessun accordo tra Regione e Pastori in protesta da tre giorni contro la crisi del settore. Il tavolo di confronto questa mattina è saltato. Ugo Cappellacci, presidente della Regione Sardegna. I pastori si avviano verso la stagione che li vedrà impegnati sul loro lavoro, nei campi, in montagna, in condizioni di grande difficoltà, ed è nata la preoccupazione legata al fatto che ancora non c'erano certezze sul prezzo del latte. C'è una partita che è quella di cui si è discussa a lungo in questi giorni, che è l'intervento sul de minimis, che è quello che questo movimento chiedeva, e questo bisogna dire in termini onesti e chiari, io l'ho fatto da subito, che non è realizzabile perché c'è un problema di risorse, perché c'è un problema di patto di stabilità, perché comunque gli interventi devono essere interventi che risolvono in termini strutturali. Intanto i pastori continuano però a occupare il palazzo del Consiglio della Regione Sardegna e il loro leader è Felice Floris. Siamo sorvegliati dalle forze dell'ordine, fuori c'è sempre un numeroso presidio che ci sostiene, e però non è che possiamo andare avanti per molto così. Cioè adesso il movimento rimobiliterà la gente, in settimana si farà di nuovo una grande manifestazione a Cagliari, perché i pastori da Cagliari l'hanno giurato, non andranno via senza risultati, e così sarà. E così dunque anche in Sardegna. Intanto però forse una buona notizia nelle prossime ore potrebbe arrivare, perché domani è stata annunciata una soluzione per un'altra crisi, quella, ricorderete, delle quote latte. Così almeno di la notizia che arriva questa mattina dal Salone del Gusto a Torino, dove c'è Paolo Piacenza. Sì, buongiorno. Domani il ministro dell'Agricoltura Giancarlo Galan presenterà al Consiglio dei Ministri alcune soluzioni per il nodo delle quote latte, nel segno del rispetto della legalità. L'annuncio, che non anticipa però i contenuti della proposta, è stato fatto questa mattina a Torino nel corso della cerimonia di apertura dell'ottavo Salone Internazionale del Gusto, la massima kermesse italiana su gusto, cibo e agricoltura, affiancata a Terra Madre, l'incontro nazionale dei produttori provenienti da 160 paesi del mondo. È stata avviata, si è avviata con una chiara apertura da parte del ministro Galan, ma anche del commissario europeo all'agricoltura da Ciancioloz, per la prima volta al Salone, sui temi lanciati dal presidente di Slow Food Internazionale, Carlin Petrini. Petrini ha messo l'accento sulla necessità di arginare la crisi agricola, sulla giusta remunerazione dei produttori tagliando la filiera, sulla riduzione degli sprechi, su una grande campagna di educazione alimentare e infine sulla nascita di una nuova generazione di giovani agricoltori. Il commissario Cioloz ha mostrato sintonia con i temi di attenzione all'ambiente e alle tradizioni proprie di Slow Food, ha spiegato che la politica agricola comune dal 2013 su cui si sta discutendo dovrà basarsi sulla sostenibilità sociale, sulla sostenibilità economica e sulla sostenibilità ambientale. Il salone prosegue qui al Lingotto fino al 25 ottobre. Da Torino è tutto. Grazie a Paolo Piacenza. Sono giorni e ore di dure proteste, questi non solo in Italia, in Francia. Domani sarà il giorno del voto sulla riforma delle pensioni in Senato. Questa mattina anche oltre Alpe, altre eclatanti proteste. La linea dura del governo Sarkozy ha portato in carcere centinaia di persone. Vous refusez un véritable débat sur quelle réforme des retraites? Absolument. Mentre il Senato francese si appresta a varare la riforma delle pensioni in un'atmosfera sempre più tesa, i sindacati transalpini, dal canto loro, si apprestano a discutere il proseguo della mobilitazione. La protesta contro la riforma vive così una giornata decisiva, perché non è affatto detto che l'unità sindacale non si possa spezzare vis-à-vis del sì definitivo dei senatori. Intanto però la tensione è alta anche fuori dalle aule parlamentari. Soltanto ieri a Lione sono stati effettuati 85 arresti per le violenze scoppiate a margine della protesta e dal 12 ottobre ad oggi in totale in Francia gli arresti legati a queste violenze sono stati 1901, violenze che nella maggior parte dei casi hanno come protagonisti i giovani delle banlieue. E sul fronte dei disagi va invece detto che stamane l'aeroporto di Marsiglia è stato bloccato per 4 ore, mentre spostarsi in treno resta difficile, e resta difficile anche spostarsi in auto a causa della penuria di carburante dovuta al blocco delle raffinerie. Igor Fiatti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Torniamo in Italia, c'è una notizia dell'ultima ora. Il PM di Brescia al processo per la strage di Piazza della Loggia ha chiesto 4 condanne all'ergastolo e una soluzione. Ergastolo per Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Francesco Delfino e Maurizio Tramonte. Soluzione invece per Pino Rauti. Così poco fa le richieste al Tribunale di Brescia. Restiamo a questioni di giustizia, con le dimissioni da questa mattina ufficiali del Presidente della Corte d'Appello di Milano, Alfonso Marra. Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. La decisione l'aveva già presa nei giorni scorsi. Lascio, ma non ho commesso nulla di male. Al massimo sono stato tratto in errore, ha ripetuto Alfonso Marra a chi lo ha incontrato nelle ultime ore. Dunque, come avevamo già anticipato, il presidente della Corte d'Appello di Milano, travolto dall'inchiesta P3 con le intercettazioni che hanno svelato tentativi di pressione per la sua elezione a quella carica, sceglie la pensione invece di una battaglia col CSM che ha avviato la sua pratica di trasferimento per incompatibilità ambientale. Così proprio oggi, nel giorno previsto per la sua audizione a Palazzo dei Marescialli, l'alta toga con una lettera chiede il collocamento a riposo per anzianità, nel timore che nell'attuale situazione la mia permanenza, scrive, possa incidere sul buon andamento dell'amministrazione giudiziaria. Non sono mai venuto meno ai miei doveri, assicura Marra nero su bianco, così come da giorni alle persone a lui più vicine aveva confidato la sua amarezza per quella richiesta di 160 colleghi di fare un passo indietro. Al massimo peccato di leggerezza, ma per me Lombardi era uno che parlava pure col presidente della Cassazione, aveva commentato Marra, ricordando come in 40 anni di carriera nessun incidente l'avesse mai sfiorato. Se non avesse fatto la scelta della pensione, comunque non avrebbe potuto più ricoprire una carica direttiva, e andando via ora ha evitato anche conseguenze economiche. Il CSM si era spaccato a febbraio nella scelta tra Marra, già alla guida della Corte di Brescia, e Rohrdorf. Ora si riaprirà il concorso per la Corte d'Appello, mentre Unicost, la corrente di Marra, già il prossimo 27 ottobre a Milano, in un'assemblea farà i conti con le sue diverse anime e in un'unica questione morale. Ed è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. E intanto, sul tema della giustizia, ancora discute anche la politica. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Riforma della giustizia in primo piano annunciata ieri da Silvio Berlusconi, addirittura per la prossima settimana in Consiglio dei Ministri. Il Premier è sicuro dell'accordo con Futuro e Libertà, ma questa mattina la finiana Flavia Perina sul Secolo d'Italia chiede di spazzare via l'idea che l'assenso al lodo Alfano in Commissione Affari Costituzionali del Senato pochi giorni fa sia il primo atto di una normalizzazione della contesa sulla giustizia, se non addirittura un accordo segreto per seggi e ruoli del FLI alle prossime elezioni. L'opposizione intanto si organizza per la battaglia parlamentare, il PD incontrerà l'UDC per avviare una serie di proposte da farsi con tutta la minoranza, e sia dal PD Nicola Latorre sia dall'API Francesco Rutelli non mancano di criticare il Premier. Sono 16 anni che Berlusconi annuncia la riforma, dicono, per Rutelli Berlusconi vuole accelerarla, ma l'impressione è che gli manchi il motore. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. E grazie anche ad Elisabetta Fiorito. L'omicidio di Sara Scazzi ora, perché la cugina Sabrina resta in carcere. La decisione è stata presa questa mattina dal giudice per le indagini preliminari. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Sabrina Misseri resta valida. È stata così accolta la richiesta avanzata dalla Procura di Taranto. Il GIP ha confermato l'impianto accusatorio messo in piedi dagli investigatori, che, lo ricordiamo, accusano Sabrina di sequestro di persona e complicità in omicidio. Negli ultimi giorni si erano diffuse voci sul fatto che l'omicidio non sarebbe stato commesso in garage, ma in casa. Ieri sera però la Procura ha emesso una nota per smentire che ci siano state da parte degli investigatori ricercatori dichiarazioni o indiscrezioni sulle indagini. Intanto nessuna traccia della corda con la quale Sara sarebbe stata strangolata. Da casa Misseri ieri gli investigatori hanno portato via solo un mazzo di chiavi e altri oggetti ritenuti utili alle indagini, ma nessuna corda. Intanto, per cercare di fare chiarezza sul caso, si attende l'incidente probatorio chiesto dagli avvocati di Michele Misseri e non ancora fissato. Lo zio di Sara vorrebbe ritrattare la parte della confessione che riguarda il vilipendio di cadavere. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. GR24, le notizie di oggi. Si allarga la guerriglia nel Vesuviano, distrutti i negozi a Bosco Reale, bruciata una bandiera italiana. Sabrina resta in carcere, la decisione del GIP per l'omicidio di Sara Scazzi. Per la strage di Piazza della Loggia chiesti 4 ergastoli e la soluzione per Pino Rauti. E riprendiamo, come dicevamo, dai consumi. Il ministro dello sviluppo economico Romani ha firmato infatti questa mattina un decreto per incentivare la domanda. Ancora 110 milioni per rilanciare i consumi, recuperati dalle somme già stanziate e non spese. Dopo una verifica, infatti, si è visto che per alcuni settori non tutti i soldi a disposizione erano stati prenotati. 110 milioni, appunto, che andranno a confluire in un fondo unico a favore di tutti e 10 settori già selezionati. Un fondo che sarà disponibile a partire dal 3 novembre. Fino a quel giorno, i settori incentivati che ancora hanno a disposizione risorse potranno continuare a prenotare i contributi attraverso il sito web dedicato. L'iniziativa, partita ad aprile, poteva contare su 300 milioni di euro, sostenuti in particolare quei settori dove è forte la presenza di imprese italiane, come la nautica o come la produzione di macchine agricole. Anche nel settore degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, gli incentivi hanno dato uno stimolo alla domanda. Con lo sblocco di queste risorse è partita anche la procedura di rimborso dei contributi spettanti a rivenditori e acquirenti, in questo caso solo per gli immobili ad alta efficienza energetica. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa mattina sta incontrando i governatori del Sud la presidente di Confindustria Epa Marcegaglia, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, una cabina di regia governo regioni allargata alle parti sociali, obiettivo investire al meglio i fondi strutturali europei 2007-2013 concentrandoli su alcune priorità: ricerca, innovazione, infrastrutture, energia, sicurezza e ambiente. La proposta lanciata dalla leader di Confindustria Marcegaglia all'incontro con i governatori del Sud, un incontro voluto per far ripartire l'economia in un mezzogiorno dove negli ultimi 2 anni il valore aggiunto del settore industriale è sceso del 20%, generando 100.000 disoccupati in più, mentre dal 97 al 2007 sono stati persi 30 punti percentuali in termini di produttività rispetto alla Germania. Il punto, ha detto la Marcegaglia, è capire come investire meglio i fondi europei. Le regioni del Sud infatti rischiano di perdere 6 miliardi di euro entro la fine del 2011, non avranno speso la quota che gli è stata indirizzata dall'Europa. In tutto ci sono 43 miliardi di euro da spendere fino al 2013, mentre la percentuale di utilizzo è finora solo del 7,6%. Intanto i governatori esprimono forti perplessità sul piano del governo per il Sud, che dicono il governo vorrebbe portare avanti con i soldi del Sud. Da Roma è tutta quella linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Buone notizie intanto arrivano per Fiat, che oggi vede rosa. E così andiamo a Torino. Andrea Malan. Sì, buongiorno a tutti. Fiat ha annunciato i risultati del terzo trimestre del 2010, ma soprattutto ha aumentato in maniera significativa gli obiettivi finanziari per l'intero anno. L'utile operativo, che doveva essere di 1,2 miliardi di euro, è stato portato a 2 miliardi come obiettivo, con un utile netto che si prevede sarà superiore ai 400 milioni di euro, mentre prima era previsto un pareggio. Alla base di questo ottimismo c'è l'ottimo andamento in Brasile, e tra l'altro il cambio favorevole del Real ha rivalutato in euro i risultati brasiliani, il buon andamento dei veicoli commerciali, di Iveco e di CNH, cioè dei trattori, mentre continua a soffrire l'andamento del settore auto per quanto riguarda soprattutto a causa del calo delle vendite nel mercato europeo, una situazione che si prevede prosegua anche per il resto dell'anno e probabilmente anche nel primo periodo del 2011, ma complessivamente appunto finora l'andamento positivo di tutti gli altri settori ha permesso trascina il gruppo e ha consentito, come almeno era fino a poco tempo fa, un rialzo di oltre il 3% in borsa. Grazie allora ad Andrea Malan. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel primo semestre del 2010 abbiamo avuto un incremento di fatturato rispetto allo stesso semestre del 2009 del 21% circa. Dobbiamo però dire che il fatturato complessivo del 2009 rispetto al 2008 era caduto del 32%. Così elenca i dati puntuali della risalita di Prima Electronics il suo amministratore delegato Domenico Peiretti. Fondata nel 1978, Prima Electronics ha sede principale a Torino e progetta, produce e commercializza elettronica industriale dedicata. Queste le tre principali strategie. Clienti fidelizzati, per fortuna non perdiamo clienti e quindi questi, avendo ripreso a vendere di più, hanno comprato di più anche da noi. Il secondo punto è avere diversificato un po' i mercati e il terzo avere investito continuamente in ricerca e sviluppo. Noi siamo una società con 200 dipendenti e di questi 40 sono in ricerca e sviluppo per avere una leadership tecnologica. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Buone notizie, altre un po' meno. Andiamo a Milano, dove è tempo di SMAO. Enrico Pagliarini. Buongiorno dalla Fiera di Milano. Parlando con gli operatori si respira, possiamo dire, un'aria di cauto ottimismo, un clima positivo, soprattutto in un'area della Fiera della quale vi sto parlando, intitolata I percorsi dell'innovazione. Qua ci sono 100 giovani imprese, 100 start-up che si presentano al mercato con le loro innovazioni in ambito tecnologico, e visto che uno dei problemi più grandi che le aziende incontrano è l'accesso al capitale, tra poche ore, anzi tra poco più di un'ora, ci sarà una iniziativa interessante, allo stesso tempo molto curiosa. 35 di queste 100 start-up potranno incontrare 25 investitori. Ognuno avrà a disposizione 5 minuti per presentare la propria idea. Prima di salutarvi vi do una notizia dell'ultima ora che rimbalza naturalmente tra i padiglioni di SMAO. Arriva dalla Finlandia, Nokia ha annunciato il taglio in tutto il mondo di 1800 posti di lavoro nell'ambito di un piano di trasformazione, un annuncio che è stato dato in occasione dei conti dell'ultimo trimestre. I dati sono positivi perché l'azienda è uscita dal rosso di bilancio realizzando un utile di 529 milioni di euro, migliore delle attese. La linea torna allo studio. Grazie ad Enrico Pagliarini. C'è un'altra notizia dell'ultima ora. Già vi abbiamo detto che Sabrina, la cugina di Sara Scazzi, resta in carcere. Emergono ora particolari dell'ordinanza del giudice di questa mattina che definisce attendibile l'omicidio sia avvenuto in garage e parla della madre Cosima dicendo ha coperto i familiari. Ma per questi e altri aggiornamenti c'è la prossima edizione di GR24 che vi aspetta alle 14. Noi ci fermiamo qui, Fabio Cantadori in regia. Ancora un saluto da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.